La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum. L'articolo 75 disciplina il principale istituto di democrazia diretta, cioè il referendum abrogativo delle leggi. Sappiamo che la nostra democrazia è una democrazia rappresentativa, cioè che passa attraverso decisioni prese dai rappresentanti del popolo. Invece abbiamo in via residuale gli istituti di democrazia diretta, cioè i casi in cui direttamente il popolo interviene. La petizione, l'iniziativa legislativa popolare, il referendum nella revisione costituzionale, ma soprattutto l'articolo 75, il referendum abrogativo, perché su richiesta di 500.000 elettori o 5 consigli regionali si può richiedere di sottoporre al voto popolare la abrogazione di una legge o un atto avente forza di legge. L'istituto del referendum abrogativo ha avuto una storia molto interessante, perché per i primi 20 anni di vita repubblicana non fu mai emanata la legge per disciplinarne concretamente l'attuazione. E quindi, fino alla fine degli anni 60, non si è mai avuto un referendum abrogativo. Poi, nel 1970, il Parlamento si trovò ad approvare la legge sul divorzio, legge che spaccò profondamente al suo interno anche il partito di maggioranza relativa, perché la Democrazia Cristiana in parte riteneva che ormai il Paese fosse maturo per la legge sul divorzio e invece in altra parte contrastava fortemente questa decisione. Quindi all'interno della Democrazia Cristiana venne raggiunto uno strano accordo politico. Contestualmente all'approvazione della legge sul divorzio, venne approvata anche la legge sulle modalità di funzionamento del referendum abrogativo. In questo modo, subito dopo la promulgazione della legge sul divorzio, venne chiesto il primo referendum abrogativo, quello proprio sul divorzio. Questo referendum venne votato nel 1974 e tutti lo ricordiamo come uno dei grandi esempi di democrazia diretta, perché ci fu una partecipazione popolare incredibile per capire se una scelta così controversa dal punto di vista morale, prima ancora che giuridico, dovesse avere cittadinanza nell'ordinamento italiano. E così, dopo di allora, il referendum abrogativo è continuato ad essere l'ago della bilancia di grandi decisioni politiche. L'aborto, la legge elettorale nei primi anni 90, grandi temi sottoposti al voto popolare, con grande partecipazione. Dopo di allora, invece, negli anni 90 e nei primi anni del 2000, si sono chiesti troppi referendum abrogativi. Quindi il popolo troppe volte è stato chiamato a pronunciarsi anche su temi minori, ad esempio la sopravvivenza di un ministero dell'agricoltura, di un ministero del turismo, di un finanziamento pubblico dei partiti, della responsabilità dei magistrati, dell'energia nucleare. Forse scelte anche importanti, ma che messe tutte assieme hanno creato una sorta di disaffezione verso il referendum. Sul voto al referendum abrogativo viene in rilievo un importante aspetto tecnico. Il quarto comma dell'articolo 75 precisa che la proposta soggetta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Quindi la Costituzione pone una doppia maggioranza. Innanzitutto, dopo il voto, bisogna contare se ha partecipato la metà più uno degli elettori iscritti. Solo a quel punto, se è superato questo quorum di validità, si conteranno i voti. Allora cosa è successo? È successo che negli anni ci si è accorti che chi preferisce il no al referendum consiglia ai propri elettori di non andare a votare. Ma in questo modo il voto referendario viene sperequato, perché a favore del non voto vanno ad essere computati anche gli astenuti. Un esempio numerico ci chiarisce il problema. Sappiamo che normalmente in Italia vota fra il 60 e il 70% delle persone. Quindi, a fronte di una richiesta di abrogazione legislativa, per un partito che è a favore del no, che non vuole l'abrogazione, è molto più semplice chiedere ai propri elettori non andate a votare, perché il primo quorum, quello di validità, parte già con il 30% di vantaggio, perché il 30% della popolazione, se non il 40% in alcuni casi, naturalmente non vota. E quindi è come se la partita, come se la gara, partisse già con un 3-0 a favore di una delle due parti. Per questa ragione noi, se andiamo a vedere i risultati dei referendum abrogativi degli ultimi anni, ci accorgiamo che i votanti hanno sempre votato sì al 90%, ma il punto decisivo è stato riuscire a capire se si superava il quorum di validità, cioè se andava a votare la metà degli aventi diritto. Il referendum abrogativo non può essere richiesto su qualunque materia. Infatti, l'articolo 75, secondo comma, vieta il referendum sulle leggi tributarie di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali. Il punto è abbastanza ovvio, perché se oggi chiedessimo l'abrogazione delle tasse, ovviamente tutto il popolo voterebbe a favore, ma ovviamente verrebbe meno il dovere di solidarietà generale nazionale. Ma il punto più interessante e curioso è che l'Assemblea Costituente aveva approvato anche una quarta materia vietata al referendum abrogativo, che erano le leggi elettorali. Quindi, per volontà dell'Assemblea Costituente, non si sarebbero mai potuti svolgere i referendum sulle leggi elettorali. Incredibilmente, negli ultimi giorni della riscrittura del testo del coordinamento finale, questo inciso scomparve. E quando si andò a votare, a dicembre 47, non ci fu più tempo per tornare sulle singole modifiche operate in sede di coordinamento finale. Quindi, può sembrare davvero strano pensare che il referendum abrogativo su leggi elettorali, che è stata una delle chiavi di volta del nostro sistema politico all'inizio degli anni 90, non era stato voluto dai costituenti. Cioè i costituenti avevano ritenuto che la materia elettorale fosse così delicata da non poter essere sottoposta al voto popolare. Sul referendum abrogativo va fatta un'altra precisazione importante. Infatti, bisogna chiedersi, il Parlamento può modificare la volontà popolare espressa mediante referendum? Mi spiego in maniera più semplice. Sappiamo che negli anni 70 il popolo ha mantenuto in vigore la legge sul divorzio, così come è accaduto per la legge sull'aborto qualche anno dopo. Ma oggi il Parlamento potrebbe intervenire e modificare la volontà popolare? Ancora, una volta che il popolo ha voluto abrogare la disciplina delle centrali nucleari, il Parlamento può intervenire nuovamente e impiantare un'altra volta le centrali nucleari? Questo è accaduto concretamente e bisogna identificare il giusto punto di bilanciamento fra la democrazia diretta e la democrazia rappresentativa. Si ritiene cioè che la volontà popolare è sicuramente più forte di quella parlamentare, ma non può essere una volontà che cristallizza un punto in maniera indefinita. Nel senso che, decorso un certo numero di anni, sicuramente il Parlamento potrà rivalutare il punto. L'equilibrio è stato trovato nella durata della legislatura, cioè fino al momento in cui il popolo stesso elegga le nuove Camere. Le nuove Camere avranno piena potestà legislativa ed è quanto è accaduto con le centrali nucleari, col finanziamento pubblico dei partiti, col Ministero dell'Agricoltura, cioè con punti ed istituti che erano stati abrogati per volontà popolare e che invece il Parlamento ha nuovamente disciplinato.